America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Today Secretary Liu took the first step by requesting and accepting the resignation of the acting commissioner of the IRS. Barack Obama che annuncia le dimissioni di Stephen Miller, dimissioni ovviamente richieste dalla Casa Bianca, e il direttore del fisco americano, l'acting director, perché ancora una nomina ufficiale non c'era stata, e le dimissioni sono giunte dopo lo scandalo che ha rivelato come il fisco americano aveva preso di mira dei repubblicani del Tea Party già nel 2011, uno scandalo molto imbarazzante. Staremo a vedere se oggi ci sarà degli ulteriori sviluppi, ma intanto vorrei parlarvi di un evento di cui sono stato testimone a New York e che ha avuto poi una sua manifestazione ieri a Cannes, dove c'è stato il debutto di The Great Gatsby. Hi Oliver. Mario. Hello Mario. Is an international journalist. Oh, he was sitting next to you. What newspaper do you write? Il Sole 24 Ore. Which is like the Wall Street Journal of Italy. Beh, mi è sembrato opportuno partire da un party, dal party che c'è stato dopo la prima del film qui a New York, che è stata la settimana scorsa, e alla quale sono stato invitato. Come sentite, c'è una straordinaria atmosfera da parte, si chiacchiera. La persona con cui chiacchieravo era Oliver Stone, avevo preso parte con una piccola apparizione nel suo film Wall Street. Insomma, c'era un'atmosfera di musica rilassata, di chiacchiera, molto divertente. Perché parto da una scena del party? Beh, perché i parties hanno un ruolo centrale in questo film di Baz Luhrmann, The Great Gatsby, un film che è già controverso, ma c'è stato un grande successo di pubblico. Pensate che ha già incassato in America oltre 50 milioni di dollari. Non solo, ma pensate che questo film ha riportato in testa la classifica dei libri più venduti in America, appunto The Great Gatsby di Scott Fitzgerald. Pensate che ha venduto più copie in una settimana che in tutta la vita dello stesso autore, considerato uno dei massimi autori americani, e questo suo libro è comunque uno dei grandi classici della letteratura americana. New York, 1922. The tempo of the city had changed sharply. The buildings were higher. Parties were bigger. Perché sono partito da un party? Perché vi dicevo, i parties hanno avuto un ruolo centrale in questa interpretazione di The Great Gatsby di Baz Luhrmann. Chi di voi andrà a vederlo, e vi consiglio di andare a vederlo perché è comunque un film molto bello, di grande intrattenimento. Luhrmann, vi dicevo, ha creato un'atmosfera quasi da cartone animato, un po' surreale, dove questi party sono portati all'eccesso. Non sarebbe possibile nella normalità di un party avere i ritmi, le urla, la musica, la velocità con cui seguiamo questi party nella straordinaria mansion, nello straordinario castello di Jay Gatsby a Long Island. Questo film è stato criticato da alcuni, per esempio da Rolling Stone, proprio per questa ragione, per questi eccessi. Si dice che il film abbia distorto il libro. In realtà, secondo me, non lo ha distorto. Tant'è vero che se vi andate a rivedere la versione precedente di questo film degli anni 70 con Robert Redford e Mia Farrow, vedete che ripercorre, ma davvero punto per punto, tutte le scene che vediamo nel film di Luhrmann. Qual è la differenza? Tecnologica. Grande tecnologia, il film è tridimensionale e soprattutto ci sono una gran quantità di innovazioni digitali. I will tell you God's truth. God's truth about myself. La storia la conoscete, una storia drammatica, sei personaggi, Jay Gatsby, bellissimo, di grande successo, ma chissà come l'ha ottenuto questo successo, Daisy Buchanan, di cui lui è innamorato, Tom Buchanan, il marito di Daisy, che però ha l'amante, insomma, un dramma che si evolve lungo la solita storia di lui, lei e l'altro. Ma torniamo al party, perché ho fatto una chiacchierata quella sera proprio con Baz Luhrmann, che ieri era a Cannes a presentare questo suo film. Ecco, comincio col chiedere a Luhrmann una spiegazione su una cosa che mi ha molto colpito. Ci sono delle scene, c'è questa macchina bellissima, già una Bugatti, d'epoca degli anni 20, e ci sono queste scene in cui queste macchine che noi siamo abituati a vedere così, grandi macchine scoperte da crociera che vanno con una certa tranquillità per la strada, che invece sono guidate in modo molto aggressivo. Gatsby la guida veramente in modo sportivo, molto rapido, si vedono gli ammortizzatori che fanno fatica a tenere su queste curve molto ripide. E Luhrmann mi spiega che Fitzgerald aveva proprio lavorato su questo concetto della macchina di guys and dolls, quindi ragazzi, gli uomini e le bambole e le macchine, quindi era un tema centrale ed era vissuta all'eccesso. Many, many years, like I worked very closely with academics, then I worked on stripping down the book, then the idea, the big thing was to solve how to get the inner voice of Nick Carraway, you know, how to get the inside, that idea comes from Fitzgerald. Ecco, chiedo quanto ha lavorato per trasporre il libro in questo film, e Buzz mi risponde: mi ci sono voluti anni, ho lavorato da vicino con un professore di letteratura, l'idea di fondo era quella di cercare di far emergere la voce interiore di Nick Carraway, che appunto è il narratore e il cugino della donna amata da tutti, e questa in realtà, dice, era un'idea dello stesso Fitzgerald, che aveva deciso di mettere Nick in una casa di cura e scrivere un nuovo libro che poi non ha mai finito. Ecco, questo era un nuovo libro, lui ha ripreso questo libro, ha fatto una trasposizione che non c'è in realtà nel Great Gatsby, e il film apre con Nick in una casa di cura, in un sanatorio, e lì comincia a raccontare la storia del film. Because, you know, he put jazz in his book. I mean, he put the street music, and people said, why are you doing that? It'll be gone tomorrow. So I wanted to feel like when you're in the 20s reading. Ecco, una cosa che mi ha colpito è l'utilizzo delle musiche, perché non sono soltanto le musiche di allora, il Charleston, il jazz, ma ci sono delle musiche interpretate, per esempio, da Jay-Z, con un ritmo molto moderno. E la risposta è molto interessante. Dice Fitzgerald: ha messo del jazz nel suo libro, mi è stato chiesto cosa pensi di fare, ma io volevo realizzare un film attuale, non datato, in modo che il pubblico si sentisse parte della storia stessa, perché le musiche del nostro tempo riflettono il nostro tempo, sono anche loro molto vive, molto estreme. Tutto sommato usciamo da una crisi finanziaria economica, ma abbiamo anche vissuto il tempo dell'abbondanza, un tempo dell'abbondanza non diverso da quello che si sperimentò negli anni 20. Mario owns a nightclub or what? Bene, ho chiuso con Oliver Stone, l'avete sentito, mi chiedeva se ero proprietario di un nightclub nel mio tempo libero, dove abbiamo continuato a parlare con musica di sottofondo, drink, di una polemica passata che noi abbiamo avuto su Chavez e del futuro del suo film, sul quale ha voluto mantenere il segreto. Non ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @ Mario Pratero. Scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. Florence and the Machine, Over the Love. Da New York è tutto, Mario Pratero vi saluta, vi dà appuntamento, a domani, goodbye and get going! America 24